in primo piano. Appalti, indagato Verdini e il coordinatore del PDL, corruzione, sono estraneo. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera e insomma questo è il nuovo sviluppo seguito un po' da tutti. Corruzione, indagato Verdini per Repubblica. G8, indagato il coordinatore del PDL per La Stampa. Il Messaggero, stop alla protezione civile privata. Per Il Giornale, tutti i nomi dell'inchiesta Bertolaso. Il Fatto titola il comitato d'affari. Per L'Unità c'è un Bertolaso di spalle in prima pagina con il titolo tutti gli uomini del presidente. Per Libero, una doppietta contro Silvio, PM a caccia di tutti gli uomini del presidente. Insomma, l'apertura dei quotidiani generalisti è davvero unanime su questo tema, che prende pagine e pagine di giornali. L'apertura del Sole 24 Ore, Bruxelles chiede di più, Atene resiste. Si tratta della vicenda, insomma, che da giorni il Sole sta seguendo, vale a dire della crisi economica, la crisi finanziaria della Grecia, e che poi vedremo. Ma come detto, cari ascoltatori, mettetevi l'anima in pace, o cari lettori, se volete prendere qualsiasi giornale oggi troverete paginate con nuove intercettazioni, con i nuovi sviluppi, con tutti i nomi, con le polemiche inevitabili. Anche Verdini è indagato, questa è la notizia più importante del giorno su cui puntano i vari giornali, anche il Sole 24 Ore, ho chiarito, sono estraneo. E poi ci sono le telefonate un po' ovunque. Beh, Verdini sostanzialmente è accusato di avere fatto alcune telefonate con l'imprenditore Riccardo Fusi e di avere in qualche modo, secondo gli inquirenti, in queste telefonate prospettato la possibilità di mettere a posto alcuni appalti, anche se ieri Verdini, che è stato interrogato, poi iscritto nel registro degli indagati alla Procura di Firenze, ha fatto una nota di 25 righe in cui dice: io non c'entro assolutamente nulla. Le telefonate però, come detto, sono 20.000 pagine di faldoni di questa inchiesta, e allora man mano che si analizzano questi 20.000 pagine, ecco che escono le varie telefonate sui giornali. Ne vedremo anche nei prossimi giorni. Oggi per esempio il Sole 24 Ore sottolinea: nelle telefonate c'è anche Paolo Berlusconi, il fratello del Presidente del Consiglio. Per La Verità è una telefonata con De Santis, che è uno degli arrestati, nel quale sostanzialmente in questa telefonata ci si mette d'accordo per un appuntamento. Insomma, io sono qui, domani sono a Napoli, per quanto ci vediamo, eccetera. Questa è una telefonata con tale Balducci. Poi c'è questa telefonata invece di Paolo Berlusconi con Fabio De Santis, oggi provveditore alle opere pubbliche in Toscana, viene pubblicata dal Sole 24 Ore. Allora lì ti chiedevo di sottolineare ad Angelo Balducci, è Berlusconi che parla, che Giovanni non ha avuto ancora nessun incarico. Allora questo per quanto riguarda quel lavoro che sta già facendo, guarda, questo lo curo personalmente, dice De Santis, lo curo personalmente, ma considera come se ce l'avesse già in tasca. Poi De Santis richiama Paolo Berlusconi: ciao Paolo, ti volevo rassicurare che ho parlato col presidente Balducci, mi ha detto che quando vi siete sentiti lui non ha fatto in tempo perché la riunione era già iniziata, ha preso sotto tutela tutto e quindi mi ha detto di dirti stai tranquillo perché ce l'ha lui sotto controllo tutto quanto. Questa la telefonata di Paolo Berlusconi che viene sottolineata al Sole 24 Ore, così come c'è il famoso incontro tra Bertolaso e questa Monica, organizzato al Salaria Village, con la telefonata poi tra Regina, che sarebbe la brasiliana che avrebbe procurato questo incontro, e Monica, appunto, la brasiliana che invece era presente a questo incontro con Bertolaso. Tutto ok? Questa è la telefonata tra le due alla fine. No, tutto sicuro, dice Monica. Non fece niente, grazie a Dio. È andato tutto bene? Ho fatto un massaggio meraviglioso. Lui ha visto le stelle. Che buono, dopo mi racconti, ok? Perché parlare al telefono... Ma non c'è niente da raccontarti. Guarda, a lui è piaciuto, l'ha adorato. Vabbè, questi stralci di comunicazioni, ma ci sono un po' ovunque, le telefonate, le intercettazioni, tutti gli uomini della cricca, anche il Corriere della Sera mette alcune telefonate di Paolo Berlusconi, invece scegliendo quelle con Balducci. Ci sono, ce n'è per tutti, Repubblica sceglie altre telefonate. La stampa, per esempio, sottolinea che c'è anche Loiero che si raccomanderebbe in una telefonata in cui, tra l'altro, peraltro parla Franco Covello, ex senatore, che parla con Angelo Balducci, che è uno degli uomini dell'inchiesta centrale e arrestato. Ti volevo dire, siccome sono col presidente della Regione Calabria, alle 12:30 ti chiamo e te lo passo, gliel'ho detto per la figliola. Ok, ti abbraccio. Come no, va benissimo. Secondo gli investigatori parrebbe che insomma si richiedesse un favore per la figlia del presidente Loiero. C'è poi l'altra intercettazione di Repubblica di Bertolaso che si scagliò contro Giuliani. Sapete chi è Giuliani? Ve lo ricordate? Quel sismologo, sedicente sismologo, che disse: io in base alle variazioni di un gas riesco a prevedere i terremoti. C'è questa telefonata molto concitata quando Bertolaso viene a sapere che questo Giuliani andava a dire: guardate che sta per arrivare un terremoto devastante in Abruzzo. Bertolaso che chiama un collaboratore o riceve una chiamata e dice: non è la prima volta che succede una cosa del genere, uno lo denuncio per procurato allarme, viene massacrato questo qui. E poi dice: fate fare all'Istituto di Vulcanologia un comunicato che quello lì domani verrà denunciato per procurato allarme, saranno denunciato con lui tutti gli organi di stampa che riportano queste notizie che sono notoriamente false, ok? E il collaboratore dice: ok, grazie, buonasera. Insomma, ripeto, io mi fermo, ma bisognerebbe fare 10 rassegne stampa solo per leggere le intercettazioni, le polemiche. Cito solo, per concludere questa vicenda, Paolo Rumiz su Repubblica in qualche modo si è messo sulle tracce di Bertolaso, che è in Val Gardena da qualche giorno, non legge i giornali, non vuol sapere dello scandalo che lo travolge, è in famiglia, è salito con la famiglia in Val Gardena. Qualche battuta dice: mi sono dimesso, il governo non ha accettato, quindi non posso andarmene. Non è andata come dicono, sono un povero Cristo con il mal di schiena che ha bisogno di massaggi. Su De Santis dice: l'ho rimosso io perché mi proponeva raddoppi di costi e dunque ho rivisto tutto con un professionista, abbiamo chiuso invece che a 320, invece che a 600 milioni come voleva lui, a 320 milioni. Insomma, l'importante è scegliere le persone giuste, quello che sto cercando di fare ora che preparo la successione. Me ne vado presto in pensione. Ho già proposto una terna a Berlusconi. Poi torno in Africa a fare il medico come all'inizio della carriera. Questo Bertolaso a Repubblica, mentre Berlusconi viene definito dal Corriere della Sera infuriato. La furia del Premier. Nuova Tangentopoli, spiegate che non è così. Berlusconi e i suoi sono solo piccole volpi nel pollaio, riferito anche, non so, alla vicenda per esempio del consigliere comunale che è stato arrestato a Milano. Un Berlusconi che viene definito furioso, preoccupato, amareggiato di questa nuova questione morale, tanto che il giornale appunto cita così il titolo d'apertura. No, a dire la verità è Libero, il titolo d'apertura di Libero: una doppietta contro Silvio, i PM a caccia di tutti gli uomini del presidente. Dopo Bertolaso indagato Verdini, i giudici accerchiano Berlusconi colpendo governo e partito. Vabbè, insomma, diciamo che il tema c'è tutto, è pieno di paginate, poi ve lo andate a leggere con calma, soprattutto se volete tutte le intercettazioni. Ecco, per esempio, il giornale metteva tutti gli uomini citati, dicendo sostanzialmente: basta che uno telefoni a un altro chiedendo un appuntamento, ed ecco che finisce lì, finisce in questa ridda di intercettazioni. Tanto che, ecco qua, spiati e criminalizzati, ecco tutti i nomi, appunto Verdini, ma anche Vito Bonsignore, l'immancabile Dell'Utri, Gianni Chiodi, Piero Marrazzo, Gianni Letta, la Santanchè, Alemanno, Soru, Lotito. Sì, perché questo anemone andava anche da un incontro con Lotito, e questo anemone, questo imprenditore, andava dicendo: devo andare a un incontro con Lotito e quello del Salaria Sport Village, o viceversa. Gli ha detto: stai attento che quello è un figlio di una mignotta, gli ha detto poco prima dell'appuntamento. Ma vabbè, insomma, intercettazioni spiattellate, questo è il tema. Come detto, Berlusconi, secondo il Corriere della Sera, è furioso perché dice: spiegate a tutti che non è una nuova Tangentopoli. Perché? Di cosa si sta parlando? Beh, c'è stato questo arresto a Milano che ha fatto molto discutere, il presidente della commissione urbanistica che avrebbe preso una mazzetta da un imprenditore per sbrigare una pratica. Per le mazzette lo Stato ha perso 69 milioni. Attenzione, perché domani è l'anniversario di Tangentopoli, non escluso che ce ne occuperemo anche noi. Il tema è questo: è tornata Tangentopoli, non è mai scomparsa Tangentopoli, la corruzione non è mai diminuita. L'allarme della Corte dei Conti è proprio questo: denunce per corruzione cresciute del 229%. 69 milioni sono la stima di quanto lo Stato ha perso per la Corte dei Conti, lo mette in rilievo a pagina 10 il Corriere della Sera. Mentre che fa? Il giornale pubblica a pagina 8 il verbale di Milko Pennisi. È il consigliere comunale che è stato appunto arrestato e che dice sostanzialmente in questo lungo verbale, proprio trascritto e pubblicato riga per riga, il verbale dell'interrogatorio, sostanzialmente dice: è l'imprenditore che mi ha detto, mi dica lei cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere per velocizzare questa pratica, e mi fece anche il segno, un gesto con le mani, no? Immaginiamo quello dei soldi, lasciando intendere che avrebbe pagato del denaro. E Pennisi dice: io, pensando al fatto che la politica ha dei costi, che se andava incontro a una campagna elettorale, sta di fatto insomma che pensando anche che una pratica edilizia non fosse giusto che rimanesse pendente così per tanto tempo, insomma, da qui nasce l'idea di prendere i soldi. Ma Pennisi dice: non sono concussore, ma sono semmai corrotto, cioè ho ricevuto dei soldi che mi ha offerto lui. A questo proposito voglio citare, prima del traffico, l'intervista, trovate molto anche su questo Pennisi, l'intervista che al Riformista ha fatto Gianfranco Fini. Presidente della Camera è stato eletto quest'anno dal Riformista il politico dell'anno, è da qualche anno che il Riformista lo fa, e quindi fa un'intervista, parla di privatizzazione della SPA, appunto, della protezione civile, dice: privatizzazione mi sembra parola orecchiata e usata in modo strumentale, comunque è inopportuno insistere sulla protezione SPA, e poi sulla corruzione dice: forse la corruzione non è mai scomparsa, la differenza è che all'epoca di Tangentopoli era una corruzione finalizzata al mantenimento del vorace sistema dei partiti. Oggi non è che la corruzione sia meno diffusa, ma è individuale e non di sistema. Per la verità, aggiunge Fini, non è una consolazione, anzi questa è un aggravante. E infatti ieri l'ha ribadito Fini: troppi corrotti, ma si ruba per, diciamo, chi ruba è un ladro, ruba per sé e non per il partito, come avveniva nell'epoca di Tangentopoli. Anche se, aggiunge Fini, non è questa una consolazione, anzi un aggravante. Come si difende un quartiere? Questo è il titolo dell'editoriale di Angelo Panebianco che il Corriere della Sera mette in prima pagina. Si parla del caso di Via Padova. La soluzione, una delle soluzioni che dice, che suggerisce Panebianco, è questa: combattere l'immigrazione clandestina è difficilissimo, ma lo è ancora di più se tanti operatori religiosi e settori di opinione pubblica mostrano un'indulgenza che sfiora la complicità verso il fenomeno, come è fin qui accaduto. Che senso ha, in nome di una sciatta e del tutto ideologica difesa degli ultimi, disinteressarsi delle gravissime conseguenze che la clandestinità porta con sé, che sono destinate a pesare sia sugli italiani che sugli immigrati regolari? Le probabilità di scontri etnici quantomeno diminuiscono se la clandestinità viene arginata e i facinorosi allontanati, e migliora per tutti la vivibilità dei quartieri. Parla dei ghetti multietnici in questo editoriale Angelo Panebianco, prende spunto ovviamente dagli scontri che ci sono stati a Milano, con la proposta del giornale che insiste: tetto agli stranieri come a scuola. Bisognerebbe capire come si fa, che facciamo? Qui 10 cinesi, là 20 egiziani. Insomma, tanto che lo stesso giornale mette, questo allarme. Intanto i politici fanno a gara chi la spara più grossa, chi ha proposto non vendiamogli le case, chi rastrellamenti casa per casa. L'ha proposto Matteo Salvini, che spesso è nostro ospite, sarà nostro ospite anche oggi alle 8.30. Ieri però Bossi ha fatto un po' il pompiere a dire: ma che rastrellamenti? No, ai rastrellamenti ci vogliono piani per l'integrazione. Questo è il nostro tema di oggi, del nostro sondaggio. Che ne pensate? Bossi ha detto: la sinistra ha riempito con montagne di immigrati il nostro paese. Siete d'accordo oppure no? radio24.it per votare. Nell'home page bianco o nero trovate un po' in basso a destra, già state votando, vi state dividendo, come detto, il 55% di voi per ora dice no, non siamo d'accordo con l'analisi di Umberto Bossi, ma come vedete, insomma, siete spaccati a metà. Ne parleremo poi alle 8.30. Voglio citare solo l'apertura del Sole 24 Ore, come detto, Bruxelles chiede di più, Atene resiste. Si è svolto ieri sostanzialmente l'incontro dei ministri all'Eurogruppo col presidente della BCE Jean-Claude Trichet, una tensione che si staglia col coltello, secondo Adriana Cerretelli. Faremo sforzi, ma serve tempo, così ha detto Atene, anche perché il tema, e ci sono tra l'altro due interessanti editoriali che vi segnalo di Roberto Perotti e di Marco Fortis in prima pagina, il tema è sostanzialmente dopo la crisi, anche Roberto Perotti si chiede, ma è una crisi davvero tragica o è una crisi, si può dire, salutare, quella della Grecia? E questo è anche il tema su cui si stanno interrogando un po' i ministri dell'Eurogruppo, cioè sostanzialmente è una crisi salutare o letale? Una risposta che, secondo Adriana Cerretelli, non è scontata e dipenderà dalle reazioni sul campo di quei 17 personaggi in cerca d'autore, vale a dire i 16 ministri dell'Eurogruppo con il presidente della BCE. Voglio segnalare nelle segnalazioni conclusive, allora, intanto una bella pagina del Corriere della Sera su un tema che tocca come sempre gli italiani, vale a dire quello della carenza degli asili nido, un vero vulnus per l'Italia. Il ritardo dell'Italia negli asili nido, lo trovate a pagina 17, il Focus, l'intera pagina dedicata ogni giorno monotematica, sempre molto interessante del Corriere. Nel 2000 a Lisbona era stato fissato l'obiettivo europeo del 33% di bambini che devono trovare posto. In Italia oggi solo 23 bambini, dunque siamo al 23% su 100, trovano posto. Ci sono poi le regioni dove va meglio, le regioni dove va peggio, come al solito. Voglio segnalare anche dalla Stampa un tema, anche questo molto seguito da tutti e dibattuto da anni, vale a dire quello dell'effetto serra. L'effetto serra? Da 15 anni non ci sono prove. Un professore inglese riapre il Climate Gate, ripreso dal Daily Express. È un tema molto dibattuto, soprattutto dopo che un importante organismo dell'ONU di recente ha ammesso che alcuni dati erano stati o interpretati male, o alcuni dati che si riferivano allo scioglimento dei ghiacciai erano stati ingigantiti, dati sulla previsione dello scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya entro il 2035. Qualcuno ha detto: abbiamo invertito le date, non era il 2035 ma il 2305. Sta di fatto che, insomma, il tema è: ma questo effetto serra c'è o no? Catastrofisti oppure no? Pagina 12 e 13 della Stampa se ne parla. Voglio chiudere con la disfida e la disfatta del cuoco, o meglio il giornalista, conduttore televisivo Beppe Bigazzi, che sapete, ieri l'abbiamo forse citato anche dal giornale, che ha combinato? Ha proposto una ricetta a base di gatto alla prova del cuoco. Io non ci volevo credere ieri, poi sono andato a risentirmelo, il giornale l'ha sottolineato, sì, ebbene sì, ha proposto una ricetta a base di gatto. Il gatto in umido, uno dei grandi piatti nel Valdarno. Si metteva il gatto 3 giorni a mollo nell'acqua del torrente, viene fuori una delizia, le sue carnine bianche le ho mangiate tante volte. Bufera in Rai, è stato escluso, è stato sospeso. Bigazzi lo conoscete tutto, no? Tutti con quei capelli bianchi, quella sua parlata, insomma, sempre molto graffiante. Ora dice: sono stato frainteso, scherzavo. Stavo scherzando su febbraio gattaio, su delle dicerie così popolari. Insomma, sta di fatto che il gatto in umido, Bigazzi via dalla Rai, sul Corriere, sul giornale, ma ovunque, insomma, che ha combinato, chi lo sa. Concludo sempre dalla Stampa. Gli aspiranti avvocati scivolano sul patè d'animo, ebbene sì, il patè d'animo. Troppi errori di che cosa hanno analizzato gli scritti degli esami di avvocatura. Un disastro, correzione con 2 Z. Abbiamo scritto con l'H, abbiamo sostanzialmente il patè d'animo invece che patema, il plurale magistratis invece del plurale maiestatis, le con l'accento non le conto neanche, un altro con l'apostrofo, questi non si contano, invece che ce n'è, c'è ne. Insomma, un disastro con quelli che chi deve valutare i temi dice siamo esterrefatti, che per la cronaca si scrive con due R. Questo analizzando gli scritti degli avvocati ad esami, ebbene sì, per chiudere con un po' un sorriso, a pagina 22 della Stampa, gli aspiranti avvocati scivolano sul patè d'animo.